Storiacce di Raffaella Calandra. C'è una cultura della mafia in cui i romani non chiamano mafia, chiamano problemi, perché se c'è l'attore, il calciatore, il VIP che ha un problema perché sono entrati i ladri in casa, perché hanno un problema da risolvere economico eccetera, sanno a dove andare a bussare, e questo fatto già ti fa capire che sanno tanto chi comanda, chi ti può risolvere il problema. E quando ti rivolgi a loro, e le intercettazioni purtroppo lo dimostrano, e gli dai una grande gratificazione a questa gente, del fatto che un personaggio importante, sportivo, del mondo dello spettacolo, ti rivolge a te per risolverti un problema, lo hai gratificato e gli hai detto se comandi tu e mi puoi tenere in pugno. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Tutti insieme, appassionatamente, come nel trenino di una di quelle feste della grande bellezza. Tutti insieme appassionatamente, l'attrice famosa, il presentatore televisivo, il cantante neomelodico e poi l'idolo calcistico. Tutti insieme come la destra e la sinistra, nella stessa grande rete di Mafia Capitale, come il nero e il rosso, due dei re di questa Roma promiscua e decadente, che annulla ogni distinzione e nega, sminuisce e rifiuta quello che invece è evidente, la presenza indiscussa di clan romani, forse perché qui, ancor più che altrove, bisognerebbe ammettere che probabilmente hanno partecipato alle stesse feste esclusive con vista sul cupolone. E allora da qui, da una delle terrazze romane dove si respira il ponentino e la storia si srotola con le sue magnificenze, parte questa puntata di Storiacce nel negazionismo della città eterna. La prima reazione della società civile di fronte a questo è dire: non esiste la mafia, non esiste un'organizzazione unitaria di questo tipo, esistono bande di pecorai. Questo si diceva a Palermo negli anni 70, questo lo abbiamo risentito dire a Reggio Calabria, questo si continua a dire a Lombardia e in altre regioni d'Italia, perché non si vuole ammettere l'entità del pericolo. Se la mafia è un cancro, bisogna adottare delle cure spesso dolorose. Le parole definiscono il mondo. Se non ci fossero le parole, non avremmo la possibilità di parlare di niente. Il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, lo dice esplicitamente. Il meccanismo in atto ora sulle sponde del Tevere è lo stesso già visto in passato a Palermo e Reggio Calabria. Negare, sminuire, ridurre la portata dell'inchiesta giudiziaria, darle un altro nome rispetto a quello di mafia. A storia di cravattari, insomma, si prova a far passare tutta l'indagine di Mafia Capitale, l'inchiesta che ha fermato gli affari del clan guidato da Massimo Carminati, uno dal passato nell'estrema destra dei NAR, che aveva però un braccio economico pienamente affondato nella tradizione rossa delle cooperative. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra e cos'è la sinistra? Se lo chiedeva Gaber e se lo chiedono anche gli autori dei Re di Roma, come Lirio Abate, inviato dell'Espresso, davanti ad un'inchiesta prima giornalistica, poi giudiziaria, che fa cadere ogni storica divisione tra appartenenze politiche e mostra, come in una stessa rete di relazioni pericolose e amicizie scomode, finiscano anche protagonisti di mondi diversi. Proprio come nelle migliori feste sulle terrazze capitoline. È nuova, una mafia 2.0, i cui componenti non arrivano dal meridione o non sono collegati alle altre mafie tradizionali. È una mafia del tutto diversa, in cui c'è un leader, appunto Carminati, una stazione politica di destra che fa affari ed ha come suo vice, suo amico un braccio economico, brava, Salvatore Buzzi, che arriva dalla sinistra, che è un ex detenuto riabilitato, che si è inventato le cooperative sociali, che dà lavoro, e da lì arriva il consenso sociale. Quindi c'è la destra e la sinistra da un punto di vista politico, è tutto mischiato. Possiamo dire che è un po' questa la specificità di questa mafia capitale? Sì, è proprio quella, la trasversalità che va da destra a sinistra, dove lo dice lo stesso Buzzi in un'intercettazione parlando con la moglie, che gli rimprovera il fatto che stava facendo affari con Alemanno, uno di destra, il marito di sinistra, arriva dal Partito Comunista. È Buzzi stesso che dice alla moglie: quando fai affari non devi guardare al colore politico, sono i soldi che prevalgono. E allora questa nuova mafia che è stata scoperta, dove non ci sono i riti di affiliazione ma c'è la metodologia mafiosa, dove non ci sono gli omicidi ma c'è la violenza verbale o comunque quella mostrata, riescono a penetrare nella politica, nell'amministrazione comunale, pubblica. C'è una mafia ripulita rispetto a quelle mafie che guardiamo giù a Palermo, a Reggio Calabria, e dove la gente, dove i romani non si accorgono della mafia perché non hanno un contatto diretto, non c'è la richiesta del pizzo. Qui a Roma non c'è, c'è il fatto che tutti i commercianti, i grossi imprenditori sanno che se hanno un problema grosso da risolvere, quello non può essere risolto secondo loro dalla polizia, dagli investigatori, si rivolgono a Carminati. Carminati, uno dei re di Roma, forse il primo, il principale re di Roma. Chi sono gli altri? C'è Michele Senese, che è stato arrestato da poco, c'è Fasciani, ci sono i Casamonica, ma sono piccolissimi, ma ci sono anche altri personaggi che arriveranno. Perché Roma, come diceva pure il procuratore Pignatone, è una zona così ampia che non può essere comandata e controllata da una sola cosca, da un solo clan. E la cosa purtroppo drammatica è che questi clan non si fanno la guerra fra di loro, esistono, controllano il territorio, lo dividono e si dividono gli affari, il business, ognuno con le proprie zone. Mi sembra di rivedere Palermo o Reggio Calabria, dove ognuno ha il proprio territorio, le proprie zone, il proprio business, e non si fanno la guerra. E se Carminati insieme agli altri decidono di non commettere omicidi, quello non accade, per cui è un controllo. Stai cavarvi tutti, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte. Invece da pesce poco, in tanti, c'èmo tanto, insieme. Questa è un'ottima base, eh. Insomma, lì vanno. Sta base ci serve per far che? Per piasse quello che se vogliamo piare a tutti. Che se vogliamo piare a tutti? Roma. Mancini, se lei dovesse definire la banda della Magliana oggi... Mi impadronisco del termine del dottor Sica, un'agenzia del crimine. Un'agenzia che agiva su commissione di altri. Anche quello, sì. Noi eravamo il gatto al quale non bisognava guardare il colore, importante anche a pari dopo, insomma. Era reciproco questo, sia dalla parte nostra che da parte di chi ci chiedeva determinate cose. Chi erano le persone che vi chiedevano determinate cose? La faccia per bene, diciamo. Quelli con la cravatta, quelli con i tatuaggi sotto pelle, ha capito? Non importa il colore del gatto, l'importante è che appare i topi, disse già a Storiacce molto tempo fa Antonio Mancini, ex della banda della Magliana, perché alla fine a Roma tutto sembra in qualche modo partire da lì, da quell'agenzia del crimine la cui appartenenza a volte è stata anche millantata come una sorta di status criminale da chi invece non aveva nulla in comune col Libano, col Nero e con tutti gli altri che provarono la conquista di Roma tra gli anni 70 e 80. E allora, come oggi, nella Roma criminale, come in quella che si muove alla luce del sole, non c'è separazione tra destra e sinistra, né tra ambienti diversi, e tutto si mescola in un'unica suburra, a detta di Giancarlo De Cataldo, magistrato capitolino. La suburra era l'antico luogo in cui si consumavano commerci inconfessabili tra patrizi e plebei, il quartiere delle osterie, dei postriboli, delle bettole in cui si ordivano complotti, assassini, e sì, appunto si facevano commerci di ogni genere. È difficile trovare una realtà di un paese ricco, di una democrazia occidentale, in cui dietro o dentro uno scandalo non ci siano insieme collegati elementi criminali e persone cosiddette normali. In Mafia Capitale abbiamo il rosso e il nero, diciamo come storie passate di alcuni protagonisti, e un po' questo era un elemento che anche già all'interno della banda della Magliana, e chi più di lei potrebbe saperlo, era venuto fuori. C'è un'eredità che negli anni della banda della Magliana era costituita dal rapporto con quei settori che sostanzialmente anticomunisti, insomma la banda della Magliana è servita anche a fare dei lavori sporchi per fare diga al grande pericolo rosso. L'Italia era un paese in piena guerra fredda. Oggi alcuni eredi della banda della Magliana fanno affari, e siccome pecunia non olet, anche questo l'ha insegnato l'antica Roma al mondo, che siano rossi o che siano neri non fa differenza. Insieme come in un affollato mercato, dove fianco a fianco si trovano il pariolino e il borgataro. Tutti insieme come nel trenino delle feste di Jep Gambardella. Da una parte i criminali, con tutte le loro storie dai colori diversi, dall'altra i loro contatti VIP, che se in questa storia non hanno accuse penalmente rilevanti, confermano però un dato, che il potere dei clan, di tutti i clan, e soprattutto di quelli che operano all'ombra dei palazzi del potere, poggia molto anche su questa riconoscibilità esterna, sulla soddisfazione, cioè, che contatti più o meno indiretti con Ornella Muti, Teo Mambucari, Gigi D'Alessio, ancora con Francesco Totti, può dare loro. Ma il pupone non si tocca, sentenzia il sindaco di Roma, e da qui, dalla storia che coinvolge il capitano giallorosso, ripartiamo nella seconda parte di Storiacce sui re di Roma e sul loro feudo. Storiacce. Nel nord del paese e nel centro anche a Roma si guarda a questi fenomeni con uno scopo, che è quello di minimizzare. Sono tutti cialtroni, banditi, c'è qualche ladrone, tangentari, ma certo di mafia non se ne può parlare. Quello era il negazionismo, questo io lo chiamo il riduzionismo. L'ammissione di quell'evidenza significa ammettere quel famoso patto di convenienza che è la vera forza delle organizzazioni mafiose. Tutto sembra meno grave se si parla di cravattari, tangentari o banditi invece di mafiosi. Ma questo, dice la procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, è invece riduzionismo. La volontà, cioè, di sminuire ciò che è evidente, come la grande capacità di relazione di questa mafia, che è tutta romana e quindi originale, ma che delle vecchie organizzazioni siciliane o campane ha comunque non pochi tratti. E se a Roma, più che altrove, conta l'amico dell'amico, la rete, il contatto giusto, la dritta buona, la stessa dinamica porta il clan di Massimo Carminati a gestire pure nomine importanti in società pubbliche, le elenca davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta Prestipino. Carne fresca che gira, polvere sulla strada, gente che se la tira, e tocchi, una campana suona. Per i gabbiani che calano sulla Magliana. C'è tutto quello che noi conosciamo delle mafie tradizionali. Carminati e i suoi diventano protagonisti di una vera e propria attività di lobbying, imporre personaggi che l'organizzazione ritiene ad essa vicini. La nomina di Berti nel consiglio di amministrazione di AMA, la nomina di Fiscon quale direttore generale di AMA, abbiamo la nomina di Limiti ancora quale dirigente di AMA, la nomina di Quarzo alla presidenza della commissione trasparenza del Comune di Roma, e poi abbiamo ancora sostegno ben riuscito a un candidato nella corsa a sindaco del Comune di Sacrofano, nella testa di Carminati è il luogo ovviamente non soltanto dove lui risiede, ma questo appoggio è finalizzato anche lì ad ottenere una serie di vantaggi dal punto di vista di lavori, appalti, eccetera, eccetera. E c'è chi arriva presto e chi è arrivato prima per le strade di Roma. In quest'ampia rete di contatti, dicevamo, entra anche l'idolo del calcio giallorosso, il pupone Francesco Totti, per un affare da 5 milioni. Storia di un palazzo ora fatiscente, di contatti ancora una volta e di sollecitazioni mandate al capitano della Roma, che, è bene ribadirlo, non è indagato. Ma è vero che uno come Totti non si può toccare, come dice il sindaco Ignazio Marino? Risponde Lirio Abate, autore di Re di Roma. Partiamo dal fatto che comunque Totti non è indagato e ci siamo accorti che fra le unità abitative che il comune di Roma ha preso in affitto dando quasi 900.000 euro l'anno è un palazzo che appartiene a una società di Francesco Totti, che ha la maggioranza e poi amministrata dal fratello e poi dalla mamma, che è stata presa in affitto dal comune di Roma. Questo edificio oggi è fatiscente ed è un edificio che nasce come uffici e soltanto pochi mesi prima di quando Odeven, accusato di mafia, arrestato, amico di Totti, vediamo l'ex collaboratore di Veltroni, quel palazzo che oggi è affittato a 2.100 euro al mese che il comune paga per uno 60 metri quadrati, ci vivono famiglie dove vi penetra l'acqua, dove non funzionano i riscaldamenti, dove siamo sicuri, come sono sicuri gli inquilini, che Francesco Totti di tutto questo non sa nulla. E allora l'appello anche che il capitano della Roma vada lì, vada a vedere come sono trattate queste persone, visto che in questi anni di affitto ha guadagnato circa 6 milioni di euro. Con i soldi dell'affitto si sta pagando il leasing del palazzo che ha acquistato. Allora vada a vedere come vengono trattati. La rilevanza sociale è quella e non può il sindaco di Roma dire che Totti non si tocca. No. Quando Mafia Capitale scoppiò, come una beffa sembrarono le accuse rivolte pure al direttore dell'ufficio anticorruzione e trasparenza del Campidoglio, Italo Walter Politano, indagato. Il sindaco lo rimosse, ma ecco che due mesi dopo lo stesso primo cittadino l'ha nominato alla guida dell'ufficio decentramento amministrativo. Tutto lecito, ma davvero tutto opportuno? Due mesi bastano evidentemente ad attutire lo sdegno e l'emozione collettiva. Due mesi invece per i clan sono ancora troppo pochi per capire come organizzarsi dopo l'arresto dei boss di Carminati e degli altri capi, ma anche per loro quel blitz è stato uno shock, ammette Giancarlo De Cataldo, magistrato romano. Diciamo che c'è sempre nella malavita una selezione naturale, sopravvivono i più forti. Che cosa ha rappresentato ora tutta questa operazione di Mafia Capitale? Si potrà più continuare a dire che a Roma non c'è la mafia. E da un punto di vista criminale? Questo è tutto da vedere. La malavita ha delle forti capacità organizzative e riorganizzative. Immagino che si stiano domandando da che parte andare e che anche gli inquirenti stiano seguendo con molta attenzione gli sviluppi. Una cosa sembra chiara, presi i Re di Roma, titolo dell'inchiesta di Lirio Abate e Marco Lillo per Chiare Lettere, le seconde leve sono già in stand-by, racconta Abate. Oggi non c'è ancora un successore, eccetera, perché sono tutti in attesa di capire e tutti sperano che questa accusa di 416 bis, cioè di associazione mafiosa, cada. E lì sarà la prova di forza, si capirà quello che accadrà nella criminalità organizzata romana. Di molti criminali sono convinti che questa gente ritornerà fuori, ritornerà magari più forte di prima. Quindi secondo te non ci sono seconde leve pronti a sostituire il posto di Carminati? Ci sono, ma sono in stand-by. Ci sono, li ha allevati Carminati, sono stati insieme a Carminati. Lo stesso Dio Tallevi, ad esempio, che non è indagato in questa vicenda, che parlando con il figlio parla con il figlio di che c'è uno che è libero, devo capire, cioè non fa il nome, ma lo indicano, sanno chi è e chi potrebbe prendere il posto di Carminati o che comunque sta a livello di Carminati e ancora giudiziariamente non si conosce. Per cui ci sono, stanno lì ad aspettare che cosa fanno, se escono o non escono. Se vince la giustizia italiana come dovrebbe essere oppure no. Ma come l'antica Roma, più di tutti, ha insegnato al mondo peculia non olet. E già ai tempi della Suburra la corruzione era all'ordine del giorno, come ci racconta Giorgio Ieranò, professore dell'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Maledetta fame dell'oro, auri sacra fames, diceva Virgilio nell'Eneide, con una frase diventata proverbiale. Lo diceva a proposito di una storiaccia mitica, la storia di Polimestore, re della Tracia, che ammazza a tradimento Polidoro, il figlio del re di Troia, Priamo, per impadronirsi del tesoro della dinastia troiana. Per denaro si può uccidere, il denaro corrompe l'uomo. Virgilio parlava del mito, ma ovviamente pensava anche alla Roma dei suoi tempi, dove i processi per corruzione erano all'ordine del giorno. E magari, da profeta, quale lo consideravano gli uomini del Medioevo, Virgilio annunciava anche la Roma di oggi. Accadde anche a un eroe mitico di essere accusato di corruzione. Si chiamava Palamede. Era uno dei guerrieri che combatterono a Troia. Un eroe ingegnoso, aveva inventato i numeri, il gioco dei dadi e quello degli scacchi, i pesi e le misure, le lettere dell'alfabeto, ma venne a contrasto con uno più ingegnoso di lui, l'astuto Ulisse, che per liberarsene lo accusò di corruzione. Ulisse nascose nella tenda di Palamede un forziere d'oro e una falsa lettera in cui Priamo, il nemico dei greci, lo ringraziava per i servigi che gli aveva reso. Accusato di tradimento, Palamede fu messo sotto processo dagli Achei e condannato alla lapidazione. Ma queste sono solo mitiche storiacce. I magistrati oggi sembrano avere prove più solide rispetto all'assemblea degli Achei. Mito e realtà qui non vanno a braccetto. Se Ulisse sfidava il ciclope, a noi tocca affrontare Ercegato. Dopo le mitiche storiacce siamo, come da tradizione, alla segnalazione. Questa settimana in realtà è una segnalazione editoriale, perché moltissimi sono stati i libri pubblicati in questi mesi su Mafia Capitale. Oltre ai Re di Roma e al romanzo Suburra di Bonini e De Cataldo, l'atto d'accusa della Procura Capitolina è raccontato anche da Gaetano Sabatteri in Mafia Capitale, edito da Melampo, e poi ancora Mafia Capitale di Giampiero Calpà, edito dalla Nuova Frontiera, e infine un altro romanzo, Professione Lolita di Daniele Autieri. E anche questo è significativo dell'attenzione rivolta all'inchiesta che ha raccontato i clan della capitale. Ma se voi avete storiacce, piccoli o grandi, da volerci segnalare, questo spazio è dedicato a voi, ascoltatori. Scriveteci allora o sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter mi trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare invece questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!